Belli, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. 6 maggio 1986 è Boston Celtics, Atlanta Hawks, gara 6, secondo turno, Eastern Conference. Vinceranno i Celtics passando il turno per 132-99, chiudendo la serie 4-2. Gli Atlanta Hawks con un Dominic Wilkins dalle polveri bagnate, 4 su 14 dal campo, non possono nulla contro i Boston Celtics con 35 punti e 10 rimbalzi e 5 assist di Larry Bird. Curiosità in questa partita, l'intero quintetto dei Celtics segnerà il totale dei punti che hanno messo a segno gli Atlanta Hawks. E gli Atlanta Hawks perderanno il terzo quarto 36-6 e quei 6 punti sono ancora tuttora record NBA, seppur negativo, dopo 36 anni. Buongiorno a tutti. Ma buongiorno a te caro Paolo per questa particolare palla 2, ma ogni volta che si parla di Boston Celtics io ne sono ben contento. Oggi però parliamo del Granducato nuovamente, già abbiamo una presenza fiorentina con Pietro Rossi, Rookie of the Year. Buongiorno Pietro! Buongiorno, buongiorno! E bentornato dalla Firenze Gigliata alla Labronica Livorno con un appassionato che a sorpresa ho voluto portare in diretta telefonica al Move to Groove. Do il buongiorno a Giovanni Lenzi. Ci sei Giovanni? Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Allora, parliamo di una stracittadina anche che ha diverse particolarità. Si parla sempre del derby a Bologna, ma abbiamo anche un altro derby che non è certo secondo, anzi tutt'altro. Chiaramente faremo un approfondimento. E come mai che tu hai questa passione che ti porta alla pallacanestro Livorno, la PL Livorno, Giovanni? Allora, pallacanestro Livorno rientra, diciamo, nella storia delle due Livorno, soprattutto in Serie A, come la storia delle due Bologna in Serie A, si rifanno a quelli che sono stati gli anni poi principali che mi hanno appassionato a questo sport, gli anni della mia gioventù, i primi anni in cui ho iniziato a giocare a circa metà degli anni 80, quindi quando la Serie A era fatta da, le squadre di Serie A erano fatte dai famosi due stranieri più tutto il resto di italiani, quindi si avevano soprattutto nelle figure degli stranieri che arrivavano in quel periodo in Italia, poi anche dei miti, tra cui Raphael Edison, che è uno dei giocatori che ricordiamo maggiormente in questo momento, dal momento che lui poi è tornato qui da noi a trovarci in Italia, a trovare il suo tifo che lo ha acclamato in maniera incredibilmente bella. Ho visto il filmato. E ti sei emozionato? E mi sono emozionato molto perché esatto, è un giocatore che ha segnato un po', secondo me, un'epoca. Io poi nel corso degli anni ho iniziato ad allenare, alleno tutt'oggi, e secondo me lui, insieme ad altri giocatori che si sono avvicendati in Italia in quel periodo, vedi l'altro all around, Wendell Alexis, che giocava nell'Henichem, vedi anche poi successivamente Darren Day, questo tipo di giocatore che in Italia non era ancora stato sdoganato più o meno, se non in rare eccezioni, questi tuttofare. Un altro grandissimo era J.J. Anderson di Firenze. Sì, hai citato, quindi, quattro elementi che... Esatto, esatto. Erano un po' i miti di quando noi ragazzini giocavamo, sì, insomma, sì. Questi giocatori che riuscivano a giocare fronte canestro, spalla canestro, all'occorrenza portavano palla, tiravano bene da fuori, tiravano bene in avvicinamento. Poi logicamente io, da buon bolognese, quando è arrivato Sugar gli ho messi tutti un gradino sotto, però... Giusto, ma io comprendo, sì, ma certo che comprendo. E fra l'altro volevo racchiudere con una sintesi quello che tu con molta precisione hai descritto come epoca, la pallacanestro. Quella era la pallacanestro. Poi ci sono stati cambiamenti, poi chiaramente per me involuzione, poi se vogliamo per certi aspetti anche evoluzione, non stiamo ad ammorbare con questo. Assolutamente, sono epoche esattamente, esatto. Sì, per cui però noi parliamo di pallacanestro e quindi in quell'epoca certamente hai portato l'esempio dei due stranieri, molto spesso USA, che vivevano guardano una pallacanestro anche in NBA oltreoceano assolutamente diversa. Per i giovani una grandissima fortuna giocare vicino alla grande, giocare vicino a Edison, a JJ Anderson, allo stesso Sugar, insomma. Per cui, detto ciò, direi che veramente i percorsi che portiamo come protagonisti al Move to Groove meritano di non essere dimenticati, perché sono stati periodi veramente, che dire d'oro è un eufemismo. Raphael Edison, dopo l'esperienza italiana, avrà fra l'altro una presenza anche importante, se vogliamo, come settimo ottavo uomo per Nets, per Charlotte Hornets. E io anche Detroit. Allora, anche nell'immagine Detroit del video l'ho visto, se vogliamo, ancora più in forma rispetto all'epoca. Si vede che l'aria di Livorno fa bene. Direi di sì. Fra l'altro Livorno, se, apro una piccola parentesi, mi è sempre stata simpatica, perché comunque hanno gravitato dei giocatori che poi si sono visti anche a Bologna prima e dopo, soprattutto nella squadra di Edison. Ricordo, magari per i più giovani non dice nulla, però un Gelsomini che ha giocato nel Thermetonic, il più grande grazie che hai citato Achille all'epoca. Scusa se faccio la citazione, come me, uno dei pochi bolognesi tesserati sia per Virtus che Fortitudo. Io ovviamente con una carriera neanche paragonabile, ma l'anagrafe, all'anagrafe c'era questa particolarità. Achille Gelsomini, hai citato gli all-around player avanti nel... Ecco, sì, sicuramente un giocatore molto moderno. Te ne dico un altro un po' pazzerello. Dimmi. Che ha giocato, Matteo Lanza. Matteo Lanza, certo. Però un giocatore molto importante. Grande agonista. Sì, lui è un lottatore, rompiscatole, per dirla in maniera molto immediata. Alessandro Goti, uno tra i più grandi atleti in Forza Virtus, poi arriva alla canestro Livorno. Per quanto riguarda gli americani, ecco il mistero, questo è il mio mistero, che risponde a nome Elvis Roll. Io metto un po' di musica e poi parliamo di Elvis Roll, perché mi devi risolvere alcune cose che io di Elvis Roll purtroppo non ho mai capito. Arriva a Bologna, non sa fare un terzo tempo di sinistro, va alla PL Livorno, chiude con 27-28 punti, tira da tre, un giocatore e diventa un grande tiratore da tre. Esatto. Questa me la devi spiegare. Buoni anche di là dalla posta, molto buoni. Vabbè, Rizzo, poi non ne parliamo. Io su Roll dico la mia: per me a Livorno l'ha lasciato troppo a briglie sciolte e gli ha fatto bene, mentre qua a Bologna doveva prendere solo dei rimbalzi e stare zitto. Questo è il mio pensiero. Ricordiamo anche il Zobinion, che ha fatto Livorno Bologna sponda Virtus come americani. Sì, sulle note di Kenny Barrell io riprendo la diretta citando aspetti importanti labronici e ci concentriamo sulla PL, sulla Pallacanestro Livorno. Poi spieghiamo anche uno dei motivi di dualismo tra questa squadra che nell'immediato è stata definita la squadra dei portuali, dei lavoratori, mentre già dal nome della società Libertas era quella più legata alla Chiesa, se vogliamo. Giovanni, se sto dicendo delle esasperazioni, correggimi. No, assolutamente, non mi permetterei mai. No, è che c'è questo spareggio in cui la Libertas deve fermare, insomma, se la gioca con Chieti, che metteva in difficoltà la Pallacanestro Livorno per la retrocessione. Beh, la Libertas Livorno perde un confronto chiaramente dove lei era superiore. Lo slogan dei tifosi della PL era questa: Libertas preti venduti a Chieti. Ecco, quindi per dire, non male. Non male, beh, d'altra parte. Pietro, siete molto, insomma, qui in Toscana non si fa sconti a nessuno, voglio dire. Specie al vicino. Specie al vicino, esattamente. Diventa tutto un derby. Altro che, insomma, anche noi chiaramente abbiamo una settimana prima e una settimana dopo. Nell'epoca di Vero Basket si parlava di Virtus e Fortitudo. Penso che anche a Livorno più o meno la situazione fosse molto similare. Sponsor Rapident Livorno, OTC Livorno, Allibert Livorno. Giocatori importanti USA, Anthony Ticey, una cavalletta nera che a me piaceva tantissimo, Cedric Orges, di cui abbiamo anche parlato, e nel palmarès di Cedric Orges troviamo una promozione con Livorno, l'unica cosa che ha segnalato, per così dire, il cedro. Questa carriera del cedro, onore al merito, perché la promozione di Livorno indubbiamente la stiamo sottolineando, fino ad arrivare Rafael Edwards, Elvis Roll, poi chiaramente ve ne sono stati altri, ma nell'epoca che stiamo portando sotto i riflettori al Mood Groove, questi hanno avuto una parte da protagonisti molto molto incisiva. Aggiungo alcuni italiani: Latterio Visigalli, Massimiliano Aldi, la bomba Bonaccorsi, Matteo Lanza, come ho già riportato, e poi avrà la carriera più lunga, estesa e anche con espressione importante a Caserta, arriverà anche al titolo, mi pare, ma era un giovane della Rapident Livorno, risponde a nome Sandro Dell'Agnello, Sandrino Dell'Agnello, che giocava nelle sponde labroniche nella Pallacanestro Livorno. Insomma, tutto ciò. E come sei, perché questa tua affezione? Mi sembra che tu sia bolognese dal tuo accento e da tutto ciò, insomma, Giovanni. Ripeto, sono stati anni dove io ho seguito il campionato in maniera veramente impressionante. Andavo a Palazzo a vedere sia la Virtus che la Fortitudo. Ero patito di statistiche con il mitico Superbasket, insieme ai miei amici. Si andava a comprare, si leggeva qualche fughino a leggere Superbasket insieme nei vari parchi di Bologna, ci scappava, eccetera eccetera, quindi è sorta questa passione, certo. Sì, fra l'altro hai citato Dell'Agnello arrivò a Caserta, se non ricordo male, con lo scambio con Simeoli e Donadoni, che andarono poi a far parte della formazione di Livorno. Donadoni, altro sottovalutato, secondo me giocatore veramente il Vinnie Johnson italiano, molto utile, esatto, molto il utile il Vinnie Johnson italiano. Per quanto riguarda Roll, secondo me un po' ha detto bene l'altro ospite, sicuramente quando tu vieni inserito in una squadra strutturata non su 5-6 giocatori e hai la possibilità logicamente anche di far rifiatare lo straniero, cosa che all'epoca era un vero lusso, logicamente gli si assegnavano magari dei compiti anche più specifici. Lui però, secondo me, seguendo un pochino la sua carriera, è stato, a differenza di tanti altri americani, un americano che è arrivato qua in Italia ancora con tanta voglia di imparare ed è migliorato da adulto. cioè io ho questa idea. Per me ha lavorato, nel senso che ha lavorato tanto, devo dire la verità. Per me ha lavorato tantissimo. Cioè, io non ho mai avuto modo di parlare nello specifico con lui, cioè di lui con allenatori che lo hanno gestito. Purtroppo ho avuto modo in passato, fortunatamente per me, di parlare con Alberto Bucci più di una volta, però non sono mai entrato in quella, in quell'argomento. Però secondo me qualsiasi allenatore abbia gestito Roll può dire, secondo me, che è uno che in palestra ci stava tanto e non si tirava indietro nel lavoro. Esatto. Quindi anche per questo motivo magari le percentuali nel tiro da tre punti che lui ha raggiunto successivamente alla sua parentesi bolognese sono anche frutto di questo. Certo. Poi c'è stata anche un po' di evoluzione nel gioco in quel bravissimo, in quegli stavo anni, per aggiungere perché sicuramente l'uomo d'area che magari si spostava anche con determinati schemi per allontanare il lungo avversario dall'area era richiesto anche già all'epoca un po' di tiro da fuori. D'altra parte non erano tutti Dawkins e quindi logicamente dovevano anche adattarsi. Sì, poi esatto. Comunque Roll un fisico eccezionale, però poi era alto come me, era 2-4. Tra me e Roll era un gigante. Non era un gigante. Io scusa se ti interrompo, volevo ringraziare chi sta contribuendo fra l'altro al nostro format come Lino, che ha ricordato un altro bolognese in forza a Livorno, il grande Daniele Albertazzi, che è stato una pedina fondamentale, più volte miglior realizzatore italiano del campionato di A2, dove c'era gente come Lee Johnson, c'era gente come Oscar quando militò a Pavia, e l'italiano per eccellenza, ne ricordo un altro, a Gorizia Ardessi. Giocatori molto importanti per la A2. Tra gli allenatori, uno degli allenatori che fra l'altro ho sfiorato, ho fatto qualche allenamento con lui ed è una persona veramente da stimare. Sai che io sono molto severo con gli allenatori, ma molto severo con gli allenatori. Ecco, Mauro Di Vincenzo allena a Livorno con ottimi risultati, è un allenatore oltre che molto preparato dal punto di vista umano, molto sensibile e vicino agli atleti. È stato allenatore nella pallacanestro Livorno, ovviamente mi darei conferma, immagino. Sì, con Albertazzi, fra l'altro, giocatore. Esatto. Stacco musicale, poi torniamo in diretta per parlare anche dei giorni nostri. Ok. A Sergio, lui grande appassionato di sport, estremamente competente, una delle poche persone, forse l'unica, con la quale chiedo informazione e scambio opinioni sul calcio, mondo molto lontano da me, però per quanto riguarda determinati aspetti culturali, ecco, parlare con Sergio è veramente illuminante. Scrive: io non conosco i giocatori di cui parlate, noto solo come ci sguazza il mio fratellone, che sarei io, quando trova da parlare con qualcuno come lui che faceva i fughini per leggere Super Basket. Io ad esempio, io ti capisco perfettamente, Giovanni. Io avevo la passione per la Spondilatte Cremona. Non chiedermi il perché. Perché con Cremona ha giocato Mark Crow, questo bianco tiratore, cecchino infallibile. Poi portato da Fabriano, un lungo molto utile stoppatore dalle percentuali altissime, soldi in banca, ma le banche quando davano un interesse importante, non quelle di adesso, insomma, Al Bill, giocatore alto, longilineo, presente, un Roosevelt Bui, per farne un esempio, con chi ha passione equivalente alla nostra, e anche un saltatore, un'altra cavalletta, George Singleton. Vabbè, Singleton. In coppia con Kupek. In coppia con, pensa a te, due esterni, fra l'altro. Esatto, che, esatto. Vabbè, scelta coraggiosa, però punti nelle mani ne avevano entrambi, quello sicuro. Particolarità quando facemmo l'amichevole con Cremona, ecco, Singleton, no, certamente con questo, a parte una persona eccezionale, aveva una vocina così, e dove così? Ma questa vocina. Quando ho annunciato, vabbè, per quelle tre persone che poteva essere di interesse, annunciai il mio ritiro, 28-29 anni, mi ricordo che arrivò a casa della mia fidanzata una telefonata, andai a rispondere io. Pronto, buongiorno, cerco il signor Piana, sono Simone Lottici. Era il playmaker della Spondilatte Cremona. Ho detto che, scusi, è uno scherzo telefonico, che sei Simone Lottici, ma io conosco tutte le tue statistiche della A2 nella Spondilatte Cremona. Ma dai, ma di qua. Non è... Ma sei sicuro che vuoi smettere di giocare? Perché magari se noi ti aspettiamo per provare... Io avevo già trovato quel famoso lavoro di cui parlo nei depositi delle memorie, che mi ha permesso poi di fare il lavoro che sto svolgendo in questo momento, per cui non me la sono sentita di lasciare nuovamente Bologna per un'altra esperienza. Però sono stato ripagato da questa naturale simpatia, scusate, in questo modo, ed è stato emotivamente grande. Molto molto forte. Allora, arriviamo ai giorni nostri, la situazione livornica, la situazione livornese, Giovanni. Ma io, guarda, sono ti dico solo una cosa. Magari mi tirerò addosso tanto odio qui a Bologna, però io non vedo l'ora di rivedere le due bolognesi tutte e due in A1 e di rivedere due società di Livorno in A1. Proprio papale. Secondo me le città che hanno fatto la storia del basket in Italia e se sono riuscite a raggiungere dei grandi livelli e addirittura con due squadre si meritano sempre il meglio, e quindi questo è più o meno il mio pensiero. E io parlavo con un altro appassionato ieri, che saluto fra l'altro, il caro Giustini, tifosissimo Virtus lui, però poco importa, quando c'è la passione per la pallacanestro è bello parlare in maniera trasversale, e lui aggiungeva: guarda che nella pallacanestro vera, come la definiamo, le protagoniste molte volte non erano grandissime squadre, ad esempio Pesaro, ad esempio Livorno, ad esempio nel sud la stessa Caserta, per cui la pallacanestro è stata portata anche da questi aspetti che tutt'altro periferici, anzi certo, assolutamente poi centrali. Beh, Brindisi ha avuto una grande importanza anche nel mondo della pallacanestro e nella carriera. Esattamente, esattamente. Che dire, quindi, so che devi andare. Grazie. Io devo andare. Guarda, ti saluto e faccio un ti rubo 10 secondi per salutare tutta la Libertà San Felice, dove alleno. Mi unisco anch'io. Un caro saluto a tutti e ti ringrazio. Grazie a te, una buona giornata e a presto. Ciao, altrettanto. Continueremo a seguire comunque, okay, a sentirci, ok? Grazie, okay. Giovanni. Ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. C'è ciao, sono già davanti allo stadio, il segnale sparisce, mannaggia, accidenti, informerò i tecnici, userò l'app, ma è un vero peccato, tra l'altro fino ad Imola in FM si sente bene, ciao Gianluca. Poi fa una critica a Sugar, evidentemente di sponda fortitudo il nostro Gianluca, è comprensibile, però dai Sugar, beh, un grandissimo giocatore, Sugar, accidenti. Dico sempre al tifoso fortitudo che dà questi attacchi a Sugar, pensa se Sugar in maglia fortitudo, lui è il tipico giocatore che la fossa va in delirio. Sì, poi più da fortitudo che da Virtus. Ma non c'è un paragone, cioè, ma probabilmente c'è questo aspetto, se vogliamo, anche un po' aggressivo, perché ma averlo noi... È anche inconsciamente, no? Se l'avessimo avuto noi... Dico questa, poi vado in pubblicità. Comunque Sugar, primo derby si presenta così. Lo mettono a giocare da esterno contro la 1-3-1 da pendolo, quindi usciva in angolo, no? Dove l'ultimo uomo in fondo deve seguire, deve farsi un bel fondoschiena. Esatto. No? E lui usciva da pendolo, le prime tre azioni, 9-0, lui mette tre bombe dall'angolo, aspetta. Il pubblico fortitudo ovviamente lo bersaglia e comincia a tirare della carta igienica in campo. Lui, prima di tirare la terza bomba, nel taglio ha tempo di raccogliere un brandello di carta igienica, spazzarsi il sudore, detergersi il sudore dalla fronte e dalla bocca, tirarglielo indietro, uscire dal blocco e mettere la bomba. Che bello! Andiamo in pubblicità, rientriamo tra poco. Hai detto che bello, parleremo di bellezza anche. Non è bello ciò che è bello ciò che piace, è vero. Ma siamo convinti? Siamo convinti di questo? Non tantissimo. Dai, ne parliamo, magari anche assieme a voi, al 333-180-9494, martedì è Mood Groove, a tra poco. Questo brano che ha a che vedere col nostro protagonista che a breve citeremo, e non è Cedric Maxwell, Cornbread Maxwell, è un titolo d'un film, Earl Cornbread and Me, dove il protagonista era un protagonista sul parquet del forum dei Lakers che rispondeva a nome di Jamal Wilkes, soprannominato come? Silk. Seta. Johnson, beh, per quanto riguarda fantasia e la coordinazione occhio-mano, direi il più grande tutti i tempi, lui stesso ha affermato: il destinatario migliore per i miei passaggi è Jamal Wilkes. Quindi questo vuol dire intuizione, movimento senza palla, capire quello che è un aspetto di taglio, allontanamento e avvicinamento a canestro, conoscenza con senso della posizione, capacità intuitiva e intelligenza cestistica e una mano micidiale. Jamal Wilkes io non l'ho mai visto, penso una volta o due, schiacciare. Ecco, e questa è una nota di merito secondo me, Pietro. Questa è una particolarità che va a suo favore. Quando noi appassionati definiamo la bellezza, intendiamo quella bellezza la Marcus Johnson o la Reggie Theus, quella per cui tutte le tifose tiravano il numero di telefono nei bigliettini durante il riscaldamento. Non intendiamo quella bellezza, anche se la rispettiamo, ovviamente. Mancherebbe. Non è esattamente quello la bellezza che noi intendiamo quando diciamo quello è un bel giocatore da vedere. Cosa intendiamo, Pietro? Per esempio, con Silk Wilkes, il movimento senza palla, perché poi se lo prendi in vitro, se te guardi Wilkes tirare, cioè, aveva quella meccanica strana, tutta spostata a sinistra, portando molto indietro il pallone, quasi sopra la testa, quasi dietro la testa, anzi, come ti dicono di non fare. Però, e qui, come dire, parto in una tangente di passione personale rispetto ai giocatori, i piedi, bravo, di Wilkes. Senza palla, perfetto, e infatti non è un caso che Magic Johnson dica la palla la voglio dare a lui, perché anche qui sembra un'assurdità, ma nello sport bisogna imparare a correre. Esatto. E per imparare a correre bisogna essere nel momento giusto, bisogna correre con i tempi giusti, coordinarsi. Esatto, e Wilkes è questo perfetto. Per me è bellissimo, non solo saper correre, saper muovere i piedi, solitamente fa bene anche per difendere, perché se sai muovere, certo, i piedi, sai correre dall'altra parte, infatti Wilkes. Ma anche per leggere la difesa, perché esatto, per me non esiste la difesa imbattibile, ha sempre la parte debole, e guardare come si avvicina per affrontare il tuo uno contro uno il difensore, capisci guardando i suoi piedi se si ferma e ti concede, esatto, il tiro da fuori, se si avvicina, in che modo si avvicina, qual è il primo piede che viene verso di te, e il piede chiaramente debole perché non ha più motivo di recupero, e quindi se arriva vicino a te con il sinistro, partenza incrociata di destro per batterlo, fa più fatica a recuperare, esatto, il tuo primo passo. Wilkes in questo questo, se Sugar non era matto di testa non l'avremmo mai visto qua in Italia, perché era talmente forte che la carriera se la faceva tutta in NBA, Non è Banks, non l'invidi ancora tuttora? Vedi Willy, nell'NBA ci sono due tipi di giocatori, soprattutto nell'NBA nostra: quelli che il pianoforte lo suonano e quelli che il pianoforte lo spostano. Ecco, Jamal Wilkes il pianoforte lo suonava, e anche bene. Ricordiamo i suoi 37 punti, 10 rimbalzi nella mitica finale, sì, quella dove Magic giocò pivot, per modo di dire. Dove i Lakers vinsero il titolo contro i Philadelphia 76ers e fece una prestazione, secondo me, mai tanto riconosciuta più di tanto, una partita clamorosa. E ricordiamo anche che fu anche protagonista nel titolo del 76 dei Golden State Warriors, del grande Rick Barry e compagnia. Grazie Paolo per il contrappunto da remoto, condivisibile, valore aggiunto della nostra formazione al Mood Groove. Ma restando a quello che tu hai sottolineato, che vado a evidenziare a sua volta, cioè la modalità e dinamica di tiro, che certamente non è quella che ti insegnano, posso permettermi di aggiungere che nella bellezza tu trovi in queste imperfezioni qualcosa che la rendono tua. È una bellezza che diventa assolutamente motivo di unicità. Ecco, soprattutto se è funzionale, voglio dire, se non è disarmonica. Ma a volte ci sono anche dei, per i più difetti, per noi non sono difetti, sono qualcosa che danno all'armonia di una fisicità, di un viso, di un corpo, di un'estetica, anche di un carattere, se vogliamo. Del resto, per me ci innamoriamo per colpa o per merito dei difetti, più delle volte. Sì, che questo... poi è quella peculiarità, no? Che ti attrae, che ti piace. E appunto, per Tizio sarà un difetto, per te è anche un pregio. È anche un pregio, come quindi, il tiro di Jamal Wills. Esatto, in questo senso sì, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Morgan è un tutti i tempi, caro Dino. Ecco, vedi, Lee Morgan aveva un suono bellissimo, ma diciamo che non era un adone, ecco. Ma il suono è uno dei capisaldi dell'hard bop. Ecco, Luigi, sulla pallacanestro la vediamo in maniera diversa. Comunque ti do il buongiorno e ci mancherebbe, anzi, avremmo modo. È vero che sono di parte, ma come eleganza io ricordo Terry Driscoll e fin qui non fa una piega. E Van Breda Kolff. Van Breda Kolff elegante. Boh! Van Breda Kolff fu un signore, Van Breda Kolff funzionale, disponibile, capacità di mettere la squadra, quello che si dice fa girare la squadra, e dai, dobbiamo per forza trovargli un pregio, glielo troviamo, dai, faceva girare la squadra. A me faceva girare qualcos'altro, ma ok, va bene, qui torna il collante tra le due squadre, la chimica. Van Breda Kolff era un ottimo giocatore di sistema, cioè devi metterlo dentro a un sistema, uno schema collaudato, e lui te lo valorizzava, ecco. Poi bravo, fuori da tutto questo siamo quasi da mani nei capelli, eh. Se fosse nel contesto che abbiamo citato in precedenza insieme a Giovanni, o che portiamo ogni volta noi per quanto riguarda gli americani arrivati in Italia, ecco, Van Breda Kolff sarebbe stato tagliato dopo due giornate. Attenzione a come si parla di questo atleta, perché ha una fan base molto nutrita e agguerrita. Ma dimmi te, però, veramente, non l'avrei mai detto. Sì, eh. Vedi, mo, che non è bello ciò che è bello, alla fine. Questo è un esempio. Guarda, in più. Lui anche esteticamente, perché l'ho visto, non un adone, poverino. Ma era questo esterno di 2-2-2-3 con degli otto fondamentali, un giocatore disponibile, una capacità di esecuzione degli schemi precisa, una mano educata, ecco. Però leggevo buon stoppatore, leggevo, confermi, smentisci? No, non confermo. Ecco, dava una mano sotto canestro, sì, perché sai, lui un esterno di 2-2-2-3. Comunque, sì, certo, poi asciutto. Oh, la prossima puntata, allora, è sopravvalutati, ho già capito. E intanto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione. Oggi abbiamo lasciato spazio, oltre che la tematica della bellezza, anche alla bellezza dell'entusiasmo, con Giovanni Lenzi, con Paolo Onofri per il contrappunto da remoto, con la co-conduzione di Pietro Rossi per il Move to Groove imprevedibile. Oggi è stato imprevedibile, oggi 7 maggio, come del resto lo è la giornata meteorologicamente parlando. A breve di Pen Enciclopedico, ricordo il vinile della settimana curato e condotto da Andrea Gozza dalle 10.30 alle 12.30, rassegna stampa Alfredo Pasquali e Piero Di Domenico quest'oggi, 9.30-10.30, a breve di Peo Enciclopedico e Liberi Dentro, il Boot Groove con il Voltiamo Pagina sarà puntuale alle ore 7 per la giornata di domani. Pietro, ci abbracciamo a parte poi, intanto mandiamo il nostro abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao, ciao, Pietro, ciao a tutte, ciao.